1, nessuno, 100 Milan. Non siamo un po' presuntuosi? 1, nessuno. 1, nessuno, nessuno, 100 Milan. 1, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 9 minuti, eccoci con Uno Nessuno 100.000. Oggi ve lo dico già, abbiamo una puntata dove i temi escono anche dalle orecchie. Abbiamo tante cose di cui parlare, da Mondragone alla vicenda coronavirus, alla scuola, alla cannabis, a chi più ne ha più ne metta. Torneremo sul tema dei disabili. Se volete c'è la questione dei vitalizi. Ragazzi, siamo qui, 800 24 00 24, ci siamo dalla redazione, Lorenzo Nesponi, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, siamo qui, c'è Laura Faggin oggi con noi, c'è Carmelo Lauricella in regia, ti ho messo all'ultimo, non far partire gli applausi per favore. Dicevo, appunto, ottimi questi applausi. Vai Carmelo, vai, dai che partiamo. Enthusiasm about the future. Allora, e da dove devo partire? Non lo so. Dico solo una cosa dei vitalizi, giusto perché non abbiamo ospiti su questo tema, però io ve l'avevo detto, ragazzi, ve l'avevo detto, vi ricordate il primo giorno in cui festeggiavano quelli del Movimento 5 Stelle davanti a Camere, Senato, in Parlamento, da Montecitorio, con frizzi, lazzi, palloncini, uno spumantino, dicendo abbiamo tolto i privilegi alla casta. Vi avevo detto che sarebbe tutto finito così, coi ricorsi, con i diritti acquisiti, o meglio quesiti, con l'avvocato Paniz che più volte abbiamo chiamato a difendere i vitaliziati dicendo il taglio è sbagliato, il taglio è ingiusto, il taglio è anticostituzionale. Cosa è successo? Al Senato, e succederà penso così anche alla Camera, la commissione giuridica del Senato ha stabilito che questi tagli per il passato sono anticostituzionali perché toccano dei diritti acquisiti. Ma ragazzi, ma era ovvio, ma non vuol dire essere a favore di questa decisione, ma vuol dire che vi avevo detto che era una photo opportunity. Sono quegli annunci, abbiamo fermato i privilegi della casta. No, non, purtroppo non si può fare così se ci sono delle regole che piacciono o non piacciono. A me personalmente possono anche non piacere così, ma era ovvio che sarebbe finita così. Ma tuffiamoci nei temi di oggi. Adesso, se riusciamo, ci collegheremo anche con Mondragone, dove c'è il nostro amico scrittore Sergio Nazzaro. L'abbiamo sentito varie volte, lui è di quelle parti, e è uno scrittore antimafia, ha scritto dei libri importanti contro la mafia nigeriana, che è partita proprio con le prime inchieste da quelle parti. Però andiamo con calma. Intanto, nel voler salutare subito il mio primo ospite, devo dire che la vicenda di Mondragone, e cioè di un focolaio che si è scatenato con 49 infetti positivi all'interno di una comunità, la comunità cosiddetta bulgara, cioè i lavoratori, che spesso sono anche lavoratori sfruttati, ricordiamolo, spesso lavorano in situazioni molto precarie. E poi c'è un altro focolaio, quello della società Bartolini a Bologna, dove tutto è stato chiuso. Ecco, questo mi porta a salutare il primo ospite che adesso ci raggiunge per parlare appunto della situazione attuale. Ma è arrivato Mario Calabresi? È arrivato Mario Calabresi? Eccoti, presente. Mario, eccoti. Ho chiamato il generale, ma dicevo, dov'è il generale? Mi sentivo un po' un soldato semplice, in effetti disperso. Stavo parlando di Mondragone, Ho sentito, ti ascoltavo, Mario. E della Bartolini. Sì, della Bartolini, questi nuovi focolai. Allora, dobbiamo credere a questo punto, cioè un giorno sì, un giorno no, come i tergicristalli, dobbiamo oggi credere agli scienziati che dicono avete visto che siamo, che non è vero, che è tutto finito, pendiamo un po' così. Il mondo ci dice questo, guarda gli Stati Uniti, tutto il sud degli Stati Uniti che aveva riaperto pensando di esserne completamente fuori, adesso sta richiudendo. Posti come il Texas, l'Arizona, che erano proprio anche ideologicamente contrari alle chiusure, stanno richiudendo i negozi. E da noi paradossalmente sta andando meglio, nel senso che abbiamo alcuni focolai, ma non quei numeri. Ieri è stato un numero, c'è stato un numero di contagi impressionante negli Stati Uniti. Sì. Infatti io sento volentieri che cosa ci dice il tuo ospite. Il tuo ospite, che vogliamo salutarlo, ci ha raggiunto Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova, ma è caduta la linea, era in linea, è caduta la linea, va bene, oggi partiamo così, è venerdì signori, è venerdì, ma adesso e non è neanche 13. E non è neanche 13, effettivamente, perché poi c'è questa mitologia per cui se non si sa se è venerdì 17 o 13, ma in America venerdì 13, effettivamente, quello vero, e non il 17. No, perché effettivamente... Venerdì 17 è ottimo perché io ci sono nato, quindi... Ah, quindi va bene. Ah, era pure venerdì. Ecco. Accidenti, va bene. No, mi pare, devo controllare. Devi controllare. No, allora, però è chiaro che il compleanno ce l'ho di venerdì. 17, il tema effettivamente però è questo, insomma, a capire esattamente che cosa ci dicono gli scienziati, che da una parte dicono attenzione, i positivi, bisognerebbe contare, oggi leggevo sul Corriere, i positivi come dei finti positivi, perché in realtà sono dei positivi che non trasmettono. Questa cosa al professor Crisanti, che forse è con noi, è tornato con noi, dottor Crisanti, sì, buongiorno. Sì, eccoci, sì, tornato, eccoci. È caduta la linea, adesso, vabbè, no, adesso la sentiamo. Buongiorno, bene. Professore. C'è Mario Calabresi, e volevamo capire qualcosa, ovviamente questi due nuovi focolai ci fanno pensare che, almeno come lei dice in varie interviste, abbiamo abbassato o stiamo tentando di abbassare la guardia in maniera imprudente? Ma guardi, io ho detto che il futuro prossimo sarebbe stato caratterizzato da piccoli cluster e focolai, avevo anche in qualche modo rassicurato che sono convinto che abbiamo costruito la capacità per reagire e per circoscriverli, quindi penso che sia normale che il prossimo futuro appunto sia caratterizzato da questi focolai e dalla loro circoscrizione con mini e micro zone rosse. Questo comunque chiaramente smentisce il fatto che il virus non esiste più, cioè questo è un'affermazione che fotografa una situazione che è il risultato di mesi di lockdown e una situazione climatica favorevole, ma il virus rimane, testimoniato anche da 290 casi di ieri. Sì. Sì, c'è da dire, professore, lei sa, nessuno dice, e neanche tra gli scienziati, che il virus non c'è più. Si discute molto sulla positività, sulla trasmissibilità del virus. Su questo lei, per esempio, dice, mi fa ridere pensare che gli asintomatici non trasmettano il virus, perché sennò come si trasmette questo virus? Ma guardi, allora, è vero che i reparti si stanno svuotando, è vero che abbiamo sempre meno ricoverati, anzi recentemente pochissimi ricoverati nelle rianimazioni. Tutto questo è vero, ma è anche vero che abbiamo centinaia di casi al giorno. Quindi questi centinaia di casi al giorno, in assenza di manifestazioni cliniche, sono trasmessi da asintomatici. È una questione di logica. Chiaro. Mario, tu hai una curiosità? Sì, no, volevo capire una cosa, ma secondo lei oggi non si arriva nelle terapie intensive, non si arriva ai caschi, perché si è imparato ad avere delle procedure, diciamo così, di contrapposizione alla malattia, delle procedure di cura che prese subito evitano di andare in terapia intensiva? Non è così? No, guardi. È semplicemente legato alla quantità di virus con i quali le persone vengono infettate. In questo momento le condizioni climatiche favoriscono la trasmissione del virus. Molte persone utilizzano il distanziamento sociale quando possibile, le mascherine, sono tutti fattori che diminuiscono la quantità di virus che una persona infetta può trasmettere all'altro. E quindi se la quantità di virus è bassa, la persona infetta ha più tempo e più possibilità di controllarlo tramite il sistema immune. Ma guardi, questo accade per tutte le malattie. La cosiddetta carica infettiva ha un impatto gigantesco sulla gravità della malattia. Se noi se noi ci infettiamo con una piccola quantità di virus o di batteri, e un altro conto è se noi ci infettiamo con una quantità 100 volte superiore. Fa una differenza abissale. Ecco, ma Questo significa che è sbagliato dire il virus è più debole. No, ci si infetta con una minor quantità di virus, non è che il virus di per sé è più debole. Ma certo che è così. Ma guardi, okay. Torno a ripetere. No, ma sa, se lo dico io non vale zero, quindi lo chiedo a lei. Sì, sì, lei ha correttamente fotografato la situazione. Ma guardi, se noi pensiamo anche come l'epidemia è partita in Italia, all'inizio, il 21 febbraio, quando noi abbiamo fatto il campionamento a Po, c'era già il 5% della popolazione infetta, senza che nessuno avesse una manifestazione clinica, fino al punto in cui si è arrivati che molte persone sono andate in ospedale. Sembrerebbe come se ci fosse un livello di soglia di persone infette prima che la malattia si manifesti, prima che l'epidemia si manifesti in tutta la sua gravità. E poi questo è interessante. Ma questo comunque è un fenomeno che incomincia a emergere anche da diversi studi. Sì. Quindi il fatto che ci sia poca trasmissione non significa che siamo fuori pericolo. E poi mi permette anche in qualche modo di fare riferimento anche alla situazione internazionale. Noi siamo stati travolti da questa epidemia quando in Cina ci raccontavano, perché magari erano molto di più, 4.000 casi al giorno. Ieri ci sono stati 180.000 casi. Cioè, la pandemia non è finita. Noi siamo in una situazione di pandemia. Questo sicuramente. E questo bisogna metterselo in testa. Lei anche oggi su Repubblica ha detto che vede un abbassamento della guardia nel nostro paese, ovviamente. Ma io vedo un abbassamento della guardia. Sì, vedo un abbassamento della guardia anche nelle dichiarazioni di alcuni politici, vedo un abbassamento della guardia anche nella fortunata dichiarazione di alcuni colleghi, che poi è stata anche male interpretata, amplificata e manipolata. Ecco, questo vedo un abbassamento, cioè non è che questo è stato un via libera. Poi adesso si dice no, non era un via libera, era una fotografia della situazione. Ma che vuol dire? Se io oggi vedo una bella giornata, fotografo la situazione, mica ha detto che non pioverà tra qualche giorno, no? Cioè, una mistificazione, bisogna fare. Posso chiedere ancora una cosa? Sì, certo. Professore, volevo chiederle questo, ma se quindi oggi, grazie alle condizioni climatiche e al distanziamento sociale, al fatto che continuiamo a tenere le mascherine, alle precauzioni, la quantità di virus che si trasmette è più bassa e quindi lei ci dice abbiamo dei casi meno gravi, questo significa che se però il virus resta, cambiando le condizioni climatiche, lei si aspetta che verso l'autunno-inverno possa tornare invece con un'altra forza? Penso che questo è nei fatti, ma guardi anche il caso del mattatoio in Germania. Ma esistono situazioni microclimatiche che favoriscono la diffusione in maniera perfetta: basse temperature, alta umidità relativa e sovraffollamento. Se noi riproduciamo queste situazioni in autunno, in una situazione in cui la pandemia non è sotto controllo e non abbiamo eliminato tutti i casi nostri, è chiaro che il rischio aumenta. Il rischio c'è. Professor Crisanti, noi la ringraziamo. Grazie. Ripeto, il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Questo è noi, tra l'altro, tra poco ci collegheremo con Mondragone, perché lì, insomma, come mi scrive Sergio Nazzaro, scrittore che è originario di quelle parti, mi dice: sembra quasi che ci sia una sorta di caccia al migrante che possa partire da un momento all'altro. Questo è un po' brutto, Mario, però si è messi di fronte a questa comunità straniera che ha tanti infetti e sta creando questi problemi. Però Mario, io ti volevo stuzzicare su un'altra questione, il tema della scuola. So che ti è molto caro, giustamente, come a tutti i genitori, ma come dovrebbe essere caro a tutti in Italia, anche a tutti devo i politici. Devo dirti, a prescindere dal fatto di essere genitore, perché sì, ho avuto due figlie che oggi aspettano la pagella di terza media, ma che erano in un'ottima scuola pubblica che ha fatto tantissima supplenza alle mancanze governative, ti devo dire la verità. Quello che mi preoccupa è proprio la disattenzione e la trascuratezza del possiamo dirlo, del governo, della ministra. Io trovo. Sì, oggi la ministra Azzolina sulla stampa fa capire che lei in realtà avrebbe chiesto 2 miliardi, ma Gualtieri non glieli dà. Gualtieri, ministro dell'economia, poi sì, il passaggio successivo sarà il burocrate, la manina, l'ostacolo. Con o senza i soldi, non è che bisogna avere 2 miliardi per dare delle indicazioni su come si devono riaprire le scuole. oppure aspettare l'ultimo però, minuto per dare indicazioni come si devono fare, come si dovevano fare gli esami di maturità, e rinviare tutto alla, con le scuole, tutto alla, all'autonomia dei presidi. L'hanno tanto contestata, soprattutto i 5 Stelle, e poi adesso i presidi decidono loro, così la responsabilità è tutta loro se succede qualcosa e non è responsabilità del governo. Dai. Però Mario, c'è un altro aspetto, e ieri mi ha colpito un intervento sulla stampa della scrittrice e insegnante Paola Mastrocola, che è con noi. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Ragazzi. Buongiorno Paola, ciao. Buongiorno perché, Mario. Perché si parla di educazione civica e tutti sull'educazione civica, io ho sentito solo dei grandi applausi a dire che bello, torna l'educazione civica, però Paola Mastrocola ha posto un accenno a dire va bene l'educazione civica, ma ai bambini di 3 anni dobbiamo insegnare l'educazione civica, non stiamo forse esagerando andando un po' troppo in basso con l'età? Perché è rimasta così colpita e sorpresa da questa iniziativa? Io sono rimasta esterrefatta e tra l'altro lo sono ancora di più adesso che mi dite che sono tutti d'accordo, pensavo si levasse un coro di protesta. In generale sull'educazione civica sono, in generale sull'educazione civica sono d'accordo, ma in generale sulla reintroduzione della materia. Però ma allora sì, certo, ai miei tempi c'era, si faceva poco, non si faceva, per carità, io sono d'accordo. Intanto, vabbè, non a 3 anni, ma su questo non starei nemmeno a discutere perché è ridicolo, cioè a un bambino, cioè cosa insegniamo veramente, la Costituzione o non so, la cittadinanza digitale a un bambino? A come usare i servizi online? Cioè, lasciamo perdere, cioè è troppo ridicolo. Però il mio discorso è più generale, cioè va bene l'educazione civica, ma non stiamo facendo altro che ripetere che da 20 anni che la scuola deve essere soprattutto educazione. Abbiamo introdotto nella scuola di tutto, anche l'educazione stradale. Io mi ricordo quando dovevo interrompere la mia lezione su, che ne so, Montale, perché c'era la lezione di educazione stradale. E così educazione va benissimo, dobbiamo educarli a tutto, alla salvezza del pianeta, all'ambiente, alla salute, a come mangiamo, ma vogliamo anche una volta dire che forse bisogna anche istruirli e educarli, se vogliamo proprio usare la parola educazione, alla poesia, all'arte, alla letteratura. Cioè io non sento mai un discorso, una parola che attenga minimamente a qualcosa di culturale. Mario, che ne pensi? Cioè, è bella questa idea, cioè, c'è quasi il trionfo della nuova scuola per cui si deve educare a 1000 nuove materie e si perdono le vecchie nozioni base, no? Dell'educazione base, dice Paola Mastrocola. Che ne pensi? Ma quello che dice Paola Mastrocola è bellissimo ed è anche poetico, cioè ci richiama a quello che dovrebbe essere il compito fondamentale. Diciamo così, tutto il resto in parte viene chiesto alla scuola di fare supplenza delle famiglie, perché a un bambino di 3 anni naturalmente non è che gli si debba insegnare la Costituzione a 3 anni, però un bambino di 3 anni a stare insieme agli altri, a rispettare gli altri, perché poi alla fine la base dell'educazione civica è quella, riuscire a stare in un contesto sociale, quello glielo dovrebbero insegnare le famiglie, non è che dovrebbe essere demandato alla scuola. Ci sono certo. Una quantità di cose che noi oggi pensiamo, si dice, dovrebbe farlo la scuola, il bullismo, fumare, mangiar male, tutto questo che viene demandato alla scuola, appunto al posto della letteratura, ma dovrebbero farle le famiglie. Che ne pensa Mastrocola? È una mancanza delle famiglie a cui si tenta di sopperire in questo modo? Assolutamente sì, sono molto d'accordo con Mario Calabresi, è proprio questo il punto. Tra l'altro l'educazione parte dal primo giorno di un bambino, da quando nasce, cioè quando li prendiamo noi a 6 anni, non ne parliamo poi a 16, il guaio è fatto. Cioè non si può chiedere alla scuola di supplire a qualcosa tra l'altro di passato. E poi comunque veramente l'unica cosa che non si chiede alla scuola è qualcosa di culturale, perché vogliamo parlare anche in questa educazione civica. Io ho letto che fa parte anche insegnare a come usare i social. Allora, vogliamo dire che se c'è un luogo dove possiamo anche non usarli, perché li usiamo già 90 ore al giorno, sarebbe la scuola. Allora, anche... fateci fare una pausa, una piccola pausa di qualche ora a scuola. Sì, cioè, siccome li usiamo già, facciamo una cosa originale, facciamo che per 4 ore a scuola non li usiamo. Proviamo a vedere se riusciamo a sopravvivere e magari prendiamo un libro di poesie. Io, scusate se insisto sulla poesia, a me sembra che nulla valga di più a educare una persona, non un cittadino, una persona, un essere umano, se non la poesia. Cosa li educhiamo? Chiedo una cosa a Paola Mastrocola. Sì. Ci consigli un libro di poesie per l'estate, il suo preferito? Beh, il mio preferito è l'Opera Omnia di Giuseppe Ungaretti. Non c'è poeta, cioè è vero, pensiamo di conoscerlo, ma non lo conosciamo. Compriamoci per piacere l'Opera Omnia di Giuseppe Ungaretti, e vale per tutte le età. Io ho cominciato, l'ho scoperto a 13 anni, stavo finendo le medie e mi ha accompagnato tutta la vita, mi sono anche laureata su di lui. Per cui sì, sono un caso grave. Tutti in spiaggia con Ungaretti. Poi dovete sapere che Paola Mastrocola è anche una grande nuotatrice e ha scritto un bellissimo libro sul nuoto. Ah, sì. Giusto? Sì. Sul nuoto hai detto, non ho capito bene. Esatto, sì. Sul nuoto. Sì, sul nuoto. Io adoro nuotare, quindi nuotate e leggete poesie, mi sembra il massimo. Cioè, fantastico. È il massimo. Nuoto una e nuotata Ungaretti. E poi Ungaretti sulla esatto. Sdraio. Io non so quanti italiani raccoglieranno la sfida di Paola Mastrocola. Io lo farò. Però ce ne fosse anche uno, due, cento, non sarebbe male, no? Ma è solo un fatto di abitudine, perché ci propinano sempre solo romanzi e basta con questi romanzi. Grazie Paola Mastrocola, ci ha dato una ventata di freschezza, sì, io dico così, buona una ventata giornata. Di freschezza stupenda. Paola Mastrocola, che è una grande scrittrice oltre che insegnante, ha scritto tantissimi libri, ne potete trovare, però insomma, visto che dobbiamo leggere poesie, non posso consigliare nessun altro libro. Mario, tra l'altro, tu nella newsletter hai parlato anche dei, credo, se ho capito bene, dei raccoglitori di fragole, che un po' c'entra con anche la vicenda, sì, di Mondragone, cioè sono sì, quelle sacche di lavoratori. Di fragole. Sì, una storia che non ho scritto io, ha scritto Cesare Martinetti, e siamo partiti da un libro che esce questa settimana, scritto da una ragazza di origine marocchina che è una ricercatrice all'università in Francia, che ha raccontato questo flusso migratorio infinito, che è un flusso avanti e indietro, stagionale, di donne dal Marocco a raccogliere le fragole in tutte le serre del sud della Spagna, sostanzialmente. Mm-hmm. Tantissime, certo, delle fragole che sono in Europa vengono da lì. E questo mondo invisibile, con questi personaggi che scelgono le donne che devono andare e che vanno nei villaggi a guardare le mani delle donne per scegliere quelle da prendere. E le prendono più, con figli, più adatte, decidono avere delle mani sottili ma forti, perché non devono rovinare le fragole, e le prendono solo se hanno figli, perché così non proveranno a restare in Spagna. Ma si staccano dai figli per 3 mesi, ma poi sentiranno la nostalgia e dovranno, certo, tornare a casa. Ritornare. Quindi ci sono una serie di storie sottotraccia nel nostro mondo che spesso ignoriamo, non immaginiamo. Sì, su mariocalabresi.it o .com le trovate. Mario, ci dobbiamo salutare. Buona oggi giornata. Abbiamo tantissimi temi, ti ringraziamo. Grazie, grazie, ti ritroviamo presto. Andiamo un attimo in pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Mi sembra un diritto acquisito ottenere dei privilegi ingiusti a danno pagato da tutti gli altri cittadini trattati diversamente? Tutto sommato penso che quando hanno fatto la legge sul taglio dei vitalizi sapevano già che non sarebbe stata costituzionalmente accettata, quindi come dire, hanno messo dentro il virus dell'incostituzionalità per non farla provare. A pensar male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca. Milan, c'è da dire che se è ovvio che finisce così, non si fa mai niente, non si prova a fare mai niente, tanto finisce così, invece bisogna provarci. Allora, Leonardo Manera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono battaglie di bandiera, no? Che servono anche a portare voti. Mi sembra. Ho capito, ma se la perdi la battaglia, la bandiera poi sì, la devi ma non importa. Poi in sede di nuove elezioni potranno dire noi ci abbiamo provato, non poi quei provato, cattivi ma... non ci hanno fatto cambiare. È cattivo. Sì, è così. Ho sentito che si parlava di poesia prima. Sì, ma guarda, la mia amica Chiaretta mi scrive, la mia amica Chiaretta che conosci anche tu, Mastro Cola, ministro dell'istruzione del mondo. Beh, non credo che esista un ministro dell'istruzione del mondo, ma va bene, facciamola. Io condivido, infatti vorrei recitare, siccome io sono un autore di poesie, riconosciuto proprio anche universalmente, una mia poesia, non ti tolgo tanto tempo, si intitola Paura... Paura d'amare, tamo, temo, finita. O questa o Ungaretti, come la Mastro Cola ha suggerito Ungaretti. Forse il Manera potremmo anche prendere come libro. È sintetica, ma dice tutto. È sintetica, ma dice tutto. Altro poi, che ermetica. Puoi ripetere. Però anche Ungaretti, sai che soldati si sta come in autunno sugli alberi le foglie, a volte era sintetico. Però questo è ancora più sintetico, ancora ce la più. Puoi Ho ripetere? Superato. Paura d'amare, tamo, temo, finita. Va bene, che poi c'è un apostrofo a tamo e a temo no, quindi uno impara anche l'ortografia e vabbè. Sergio Nazzaro, torniamo alle cose serie. Sergio, ciao, buongiorno. Buongiorno. Torniamo alle cose molto serie. Tu sei a Mondragone, perché... Sì, sono davanti alla zona rossa, che ieri è stato teatro di duri scontri e proteste. Ma che sta succedendo? Succede che qui siamo al centro del paese di Mondragone e c'è stato un focolaio che ha coinvolto una comunità rom di nazionalità bulgara che lavora nei campi sfruttata perché non credo che nessuno abbia un contratto di lavoro stagionale. Sono i palazzi ex Sicilio, dei mini grattacieli che sono al centro della città, che sono stati sempre il simbolo del degrado nel corso degli anni e come succede sempre al sud, a Mondragone, Castelvetrano, che sta a pochi chilometri, più è visibile un problema, più il problema non appartiene a nessuno. E il Covid ha messo allo scoperto i nervi dell'Italia, ma anche di tutte le nazioni del mondo, ma anche delle comunità locali. E ieri purtroppo c'è stata questa guerra tra poveri. Ma sì, tra l'altro, ecco, è proprio il mix perfetto, Sergio, perché stranieri, aggiungo rom, e infetti perché si sono infettati, contro i locali che dicono state a casa, il lancio della sedia immortalato da una foto di uno di queste persone che lancia una sedia di legno in momento di rabbia contro i manifestanti, c'è l'esercito, cioè è tutto uno scenario... Ma a me un po' mi sorrido amaramente, noi ci conosciamo da tempo e quando io ho sempre sottolineato anche nei miei reportage che Mondragone come Castelvetrano, la strada domiziana era il focolaio di tante e terribili tensioni sociali, si viene sempre presi sotto gamba, poi stamattina prendi Repubblica, ci apre a piè pagina, così il Corriere e tutti quanti gli altri giornali. Siamo appena a 180 chilometri dalla capitale, Roma. Siamo sotto il sole del sud dove i problemi sono evidenti, dove il caporalato, e io tengo a specificare che caporalato significa imprenditori italiani che agiscono in maniera totalmente scorretta verso i loro simili, cioè gli imprenditori che pagano le tasse, che fanno i contratti normalmente, perché poi le verità sono semplici. Qui ci sono migliaia di abitanti, perché questo sono migliaia di abitanti, e mi chiedo quanti contratti di affitto regolari ci sono, quante tasse vengono pagate all'amministrazione comunale, ma il problema non appartiene mai a nessuno. E questo è il dramma. Ma questo sì. Io, Sergio, poi, nel dici. No, no, aggiungevo che poi ieri ciò che è accaduto ha dell'incredibile, perché se succedeva durante il lockdown, mi chiedo, cioè, si fa la quarantena, si fa la zona rossa, la comunità rom giustamente che è scesa in strada dicendo noi dobbiamo lavorare se non moriamo di fame, i cittadini di Mondragone che sono entrati nella zona rossa e con tutti gli sforzi fatti dalla caserma dei carabinieri, dalla prefettura, dalla questura, è stato sottovalutato il problema, l'enormità del problema, perché il problema è straniero, Alessandro, il problema è sempre di un altro da noi, il problema appartiene sempre a qualcun altro, anche tra noi italiani, il problema dell'Italia non è Mondragone il sud, è sempre un problema vostro, è sempre l'altro da noi il problema. No, ma è chiaro, è sempre che colpa degli altri, no? È sempre colpa degli altri, sì, sì. Devo dire che noi, nel ringraziare Sergio Nazzaro, che insomma abbiamo conosciuto per le sue inchieste, i suoi libri anche sulla mafia nigeriana, li abbiamo presentati qui, è una battaglia tra deboli, giustamente come ha detto lui, e speriamo davvero che venga contenuta anche, cioè, l'esercito per questo. E a proposito di deboli, Leonardo, ieri abbiamo parlato della questione disabili con Gian Antonio Stella, che è un altro tema che secondo me meriterebbe le prime pagine dei giornali, ma insomma viene un po' affossato nelle pagine centrali. Per questo ci è venuto in mente che noi abbiamo un po' abbandonato colpevolmente, volevamo anche solo salutarlo, Stefano Geller, che torna. Stefano, che ha una distrofia molto grave, faccio scapolo omerale. Ciao Stefano, come stai? Ciao Alessandro, ciao Leonardo. Vi ricordate che noi avevamo il sogno anche di portarlo in giro, portarlo a New York, poi chiaramente, mannaggia, avevamo trovato anche, c'erano imprenditori pronti a pagare tutto il viaggio, che è uno dei sogni di Stefano, e poi insomma questo coronavirus, mannaggia. Come stai intanto? Come procedi? Beh dai, adesso sto iniziando ad uscire, a vedere un po' di amici, con tutte le precauzioni, però ecco, mi sono stancato anch'io di stare a casa. Mi sembra giusto. Sai che ieri abbiamo parlato di questa vicenda dell'accompagnamento a 200 e rotti euro che la Corte Costituzionale ha giudicato immorale, oltre che illegale e anticostituzionale. Anche tu hai una storia simile? Ah sì, perché purtroppo la spesa per i disabili gravi soprattutto, e gravissimi, è quella di pagare un'assistenza adeguata, come nel mio caso e tanti altri, di 24 ore su 24, che ha un costo elevato alla fine. Per esempio, so che anche il tuo familiare prende molto poco, no? Ci vuoi raccontare? Sì, anche mia sorella Cristina, che anche lei ha la mia stessa malattia e ovviamente per ora non ha la possibilità di pagarsi un'assistenza adeguata, perché la pensione è sempre quella che è da tantissimi anni, insomma. Ce la puoi dire? Ce la puoi dire, se non è visto, tu l'hai pubblicata, quanto prende? Sì, dai. C'è quella di 283 che prendiamo tutti quanti, e poi c'è l'accompagnatoria che è sui 500 e qualcosa, e poi c'è un aiuto che viene a seconda delle regioni, che è di 4.000 euro all'anno, ecco. All'anno. E pensate che ieri leggevo che la Corte Costituzionale si è basata su questo articolo 38 della Costituzione italiana, che dice che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione, hanno diritto a essere sostenuti dallo Stato, e leggevo che all'epoca della creazione della Costituzione italiana i padri costituenti combatterono moltissimo, perché c'era una linea molto intransigente di coloro che dicevano che non dovevano essere a carico dello Stato le persone con diverse abilità. passò fortunatamente la linea contraria e quindi questo articolo 38, ma pensa Stefano che insomma i padri costituenti tanto spesso celebrati, molti non erano a favore di un sostegno da parte dello Stato per i disabili. Però poi passò comunque quella linea, passò, e la dimostrazione passò, che la Costituzione è in gran parte inattuata, quando lo si dice, no? Esatto, cioè, è passata poi la linea, ma poi la vita pratica, come ci dice Stefano, è altra. Stefano, noi facciamo così, perché oggi siamo pieni di argomenti e un po' di corsa. Uno di questi giorni ti possiamo chiamare con calma, ci racconti un po' come sono le tue vacanze, cosa fai d'estate, anche lunedì se vuoi, anche lunedì se vuoi ti richiamiamo. Stefano Geller, grazie, ti richiamiamo lunedì, così ti prendo già l'impegno in diretta, intanto andiamo al traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, signore, le 9:51, caro Leonardo. Oggi sei silenziosissimo. Guarda, per questo siccome so che oggi siamo lunghi, ci sono tanti argomenti, ho preparato un pezzo appunto particolarmente lungo. Molto lungo, però, bravo. Però dedicato a una figura dalla quale si parla poco e che invece dal mio punto di vista merita grande solidarietà. Va bene, riassumicelo, vai. Adesso, no, lo faccio lungo apposta per creare problemi. Allora, uno dei settori più a rischio a causa di questo periodo di coronavirus è quello dell'auto. Secondo un sondaggio che ho visto ieri, quasi il 40% dei concessionari è a rischio chiusura. Probabilmente, oltre al periodo, incide anche un atteggiamento diverso da parte dei giovani. Se non si hanno particolari necessità di movimento, molti giovani preferiscono noleggiare l'auto quando serve e non averne una di proprietà. Quando ero ragazzo io era completamente diverso. Guidare l'auto serviva per andare a prendere le ragazze, quindi appena possibile si cercava di fare l'esame per la patente. Mi pare che all'esame di teoria fossero consentiti 2 errori e poi, se si passava all'esame di pratica, la tecnica che più si temeva era la partenza in salita, giocando col freno a mano. Ogni volta si sentiva odore di bruciato, motori che impazzivano, ruote che indietreggiavano, carburatori in ansia da prestazione. La partenza in salita, giocando col freno a mano, era la più temuta da tutti gli esaminandi. I più temerari facevano l'esame da privatista. Gli altri qualche prova pratica magari col padre e poi alcune lezioni con la scuola guida per essere favoriti al momento dell'esame. Anch'io feci così. Mio padre mi diede qualche lezione di guida, ogni volta rischiando la vita, sudando freddo e temendo incidenti a ripetizione. Poi ogni volta dopo la lezione elettrocardiogramma. E poi c'è l'istruttore di scuola guida. Un lavoro ad alto rischio di infarto, forse il più usurante di tutti, e che sicuramente porta all'alcolismo, perché dopo ogni ora di lezione, dopo ogni pericolo scampato con qualche guidatore neofita, l'istruttore inevitabilmente, per rilassarsi, cede al bicchierino di whisky nel bar vicino all'autoscuola. Infatti, nei pressi dell'autoscuola c'è quasi sempre un bar i cui clienti più assidui, soprattutto di superalcolici, sono proprio gli istruttori. Gli istruttori scuola guida vanno ogni giorno incontro al pericolo, sono quasi tutti uomini. Ogni mattina quando escono di casa le mogli li salutano come se fosse l'ultima volta, come andare in guerra ma senza nemmeno la possibilità di una medaglia. E raramente restano sposati a lungo perché le mogli dopo qualche tempo non sono più in grado di sopportare una vita così incerta. E allora gli istruttori rimasti soli poco alla volta si imbruttiscono, le barbe crescono lunghe, incolte, il vocabolario anche nella vita quotidiana si fa sempre più ristretto, dicono solo cambia, metti la freccia, avvicinati alla linea di mezzeria e poi di notte dormono senza sogni. Forse anche gli istruttori di guida in passato hanno avuto sogni, diventare pilota di Formula 1, sposare un'allieva carina, essere riconosciuti per il loro ruolo sociale ed essere magari premiati dal Presidente della Repubblica. Invece no, l'apice del lavoro dell'istruttore di guida è quando sale in macchina con l'allievo il giorno dell'esame e arriva il momento della partenza in salita, col motore che soffre, le marce che fremono e il freno a mano protagonista di manovre incerte. Poi dopo l'allievo sarà libero di perseguire i suoi sogni, magari a bordo di una decappottabile viaggiando verso il mare. L'istruttore di guida no, lui ricomincerà con un altro allievo, con altre linee di mezzeria, con altre svolte a destra o a sinistra, con velocità ridicole, con altri freni a mano urlanti, prima dell'ultimo bicchierino di whisky. Vedi che non hai neanche avuto bisogno di riassumerlo. Salutiamo ovviamente tutti gli istruttori di guida, categoria che oggi Leonardo Manera vuole inimicarsi, e li mettiamo in fila con notai, poi non, commercialisti. Non me li voglio inimicare. No, ma tu lo sai che ogni puntata vuoi distruggere una sacca di ascolto numerosa. I tassisti, una volta te sei presa con i tassisti. Con chi ce l'hai oggi? Dai, nella seconda ora di Uno Nessuno Centomila, chi disintegrerai dall'ascolto della nostra trasmissione? Dai, forza, allora, con un raggio quello, laser. Dimmi una categoria. Quello. Allora, i baristi che per salutarti dicono ciao, ecco, caro e ciao gioia. Insomma, ecco, a me, basta. Non dite caro e gioia, che è molto impersonale. Basta. Dite, se basta, conoscete il nome, dite il nome, altrimenti evitate di dire ciao caro e ciao gioia, che è una cosa che vabbè, secondo me un milione di ascoltatori persi. Giornale radio, vai. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Uno, nessuno, 100 Milan. Le autorità di Mondragone sanno tutto da sempre, come anche in altre zone d'Italia, non è che Mondragone sia un'eccezione. Quindi, ipocrisia, discorsi, tutto stupidaggi. Fate parlare anche Zangrillo anziché sentire solo Crisanti, perché è vero che il virus esiste ancora e circola, ma se infetta di meno perché la carica virale è bassa, a questo punto chi ha ragione? Dobbiamo vivere nell'angoscia oppure possiamo liberarci di questo virus pur stando attenti? Non lasciamo più. Fate parlare anche gli altri, non solo quelli fate che parlare gli altri, fate parlare gli altri. Segnalo, aspetta Carmelo, segnalo che Zangrillo è stato nostro ospite e ha suscitato, il giorno dopo Lucia Annunziata, ha suscitato un vespaio di polemiche. Quando abbiamo invitato Remuzzi varie volte, un vespaio di polemiche. L'ascoltatore è distratto, Leonardo, quantomeno no, distratto. Fate quando, parlare quando anche abbiamo... Zangrillo, mica quelli che fanno comodo a Manera. Ma quando parla, no, io sono più d'accordo con Zangrillo, se devo dire la verità, perché il problema ma è peraltro è stato nostro ospite. Io sono d'accordo con Zangrillo, ci rimproverano di non chiamarlo, capisci? Ma io dico una cosa, è la scoperta dell'acqua calda che il virus c'è ancora. Bisogna capire quanti di quelli che lo prendono vanno in terapia intensiva, quanti diventano gravi, perché se diventa un virus che comunque si può curare anche a casa, non è che possiamo chiudere la nostra vita. Ma dai la voce io a Zangrillo, c'hai il coraggio. Dai il microfono a Zangrillo, se avete coraggio, mica sentir solo i Crisanti. Quindi dipende quanto è grave, quanto diventa grave questo virus, quanti devono andare in terapia intensiva, perché se diventa una malattia gestibile è giusto insomma vivere in modo normale, io credo, così. Va bene, ragazzi, adesso che cosa c'è di più? Ma ragazzi, da quando Beppe Grillo ha tirato fuori Il giorno della marmotta, ecco, Il giorno della marmotta, che è un gran film, io lo devo esibire tutti i giorni. Scena da Giorno della marmotta, l'abbiamo vista dai tempi di Pannella, i parlamentari che esibivano il fatto di coltivare la cannabis e farsi le canne. Riccardo Maggi, buongiorno, ben ritrovato Riccardo. Buongiorno a te e agli ascoltatori. deputato di più Europa. Oh, ieri uno dei parlamentari che candidamente ha detto: io coltivo, cioè non ho problemi a dire la cannabis a casa. Oh, ti faccio partire dalla dichiarazione di Di Battista, 5 Stelle. Volete la regolamentazione della produzione e vendita di cannabis? Evitate allora di farvi selfie con la canna in mano. Si tratta di gesti infantili, ricordano coloro che pretendono di ottenere un miglioramento dei diritti civili per gli omosessuali esibendosi in volgari forme di trasgressione ai gay pride. E così ne ha stese due categorie, i cannaioli e gli omosessuali. Riccardo, vabbè, diciamo che io mi scuso anticipatamente per quello che dirò adesso di Di Battista, però nella parte finale del suo post lui si dice anche favorevole poi alla legalizzazione. Gliene va dato atto. Tutti così, hanno preso in considerazione così, le prime però. 5 righe che sono a mio avviso oscene, un condensato di paternalismo, di moralismo. Il Gay Pride è una manifestazione che ha avuto un senso di lotta e di battaglia anche per le sue manifestazioni esteriori che hanno fatto sì che si sollevasse l'attenzione su quelle questioni. La stessa cosa si può dire di quello che abbiamo fatto ieri in piazza, che è a tutti gli effetti una disobbedienza civile. Noi ci siamo autodenunciati per il fatto di coltivare, violando la cannabis, violando la legge italiana, per attirare l'attenzione su cosa? Che in Italia da 30 anni si fa guerra alla droga e l'anno scorso la violazione al testo unico degli stupefacenti è la principale causa di ingresso in carcere nel nostro paese. Ciò nonostante il mercato non diminuisce, la criminalità continua a fare affari d'oro e abbiamo centinaia di migliaia di giovani che vedono la propria vita rovinata per questo, e non diminuisce la quantità di droga in circolazione. Facciamoci delle domande, questo è il punto da sollevare. Se Di Battista lo vuole sollevare con noi, siamo felici. Ma in ogni caso so che è intervenuta la polizia. Certo, non erano i bei tempi quando c'era Pannella, che si facevano le retate. Tutto era un po' più sordina. Purtroppo è un po' più sordina ed è incredibile che oggi se ne parli poco, perché si dice che il nostro paese ha altre emergenze, si parla della giustizia che non funziona. Io ripeto, 200.000 procedimenti ogni anno sono per il tema della violazione del testo unico dei stupefacenti. La principale causa di ingresso in carcere, se non è questo un problema. La novità di questa iniziativa qual è? Che l'iniziativa si chiama Io Coltivo, è una disobbedienza civile alla quale una quindicina di parlamentari hanno aderito, ma hanno aderito 2.000 persone in Italia, cioè per la prima volta è una disobbedienza civile collettiva, diffusa. Ci sono 2.000 persone che stanno coltivando a casa loro, stanno iniziando i primi casi evidentemente di sequestri e anche di irruzione delle forze dell'ordine, e c'è un team legale. Cosa ti può succedere? No, ma a te, Riccardo, potrebbe bussarti domani a casa la polizia e dire: beh, essendo parlamentare, no, magari in maniera così brutale. Noi abbiamo ancora una legge che punisce la coltivazione come più grave in alcuni casi del piccolo spaccio. Ora c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che dice: se la coltivazione è a scopo di uso personale non deve essere punita, ma la legge è ancora quella. Quindi il primo obiettivo è cambiare questa legge, dire che nel nostro paese chi si coltiva la pianta per fumarsela sta sottraendo guadagno alla criminalità organizzata, quindi non va punito, e poi arrivare a una legalizzazione totale. Questo è il nostro, primo passo è dire chi lo fa non va dallo spacciatore, quindi sottrae fonti alla criminalità organizzata arrivare alla legalizzazione. Io credo che per alcuni partiti il tema della legalizzazione della droga sia un tema tabù, un tema di bandiera, come il tema del ritorno della prostituzione, da quanto se ne parla inutilmente. Io penso che vada detto chiaramente che chi segue una politica proibizionista dopo 30 anni che noi l'abbiamo attuata, non è che stiamo discutendo in teoria, dobbiamo basarci sui dati, sui risultati, fa una politica a favore della criminalità e del mercato illegale. A questo punto va detto chiaramente, non è che c'è più da teorizzare su questo. Se tu impieghi ogni anno miliardi di risorse pubbliche in operazioni di polizia che vanno nelle scuole per sequestrare lo spinello e perquisire con i cani gli zainetti degli studenti, e ciò nonostante la quantità di sostanza stupefacente continua ad aumentare, devi prendere atto di un fallimento. Cioè le leggi non possono basarsi su un moralismo, perché se hanno l'obiettivo di stroncare un mercato e lo fanno crescere, qualcosa non va. Ma l'assurdità della nostra politica è che in queste ore in cui noi parliamo, nel decreto rilancio, c'è un emendamento a mia prima firma, ma sottoscritto da una cinquantina di parlamentari, sulla cannabis light. Sapete cos'è la cannabis light? Sì, certo. La canapa che non ha un contenuto drogante di principio attivo di THC. In Italia ci sono procuratori che stanno facendo sequestri ai negozietti che vendono quello che si chiamava una volta il canapone, quello per fare le corde. Questa è una ossessione, capite? Cioè, proibizionista e puritana, mi viene da dire. No, ma ne abbiamo parlato tante volte. Poi ci sono regioni dove i negozi non vengono toccati, altri prefetti che invece dicono sequestrate ma tutto. Ma sì, perché il procuratore deve andare sulla prima pagina del giornale locale facendosi passare come moralizzatore che ha sequestrato il canapone, quello con il quale i nostri nonni facevano le corde e poi ogni tanto si fumava pure perché aveva un buon sapore prima del canapone. Posso rapidamente una mia perplessità, ma il tema della cannabis non è ormai un po' superato, visto che anche per i giovani sono più pericolose e più usate anche molte altre droghe di tipo sintetico, sicuramente più dannose? Esattamente, infatti quello su cui bisognerebbe lavorare di più è l'individuazione e l'analisi di queste nuove sostanze che cambiano continuamente e vengono immesse sul mercato. Purtroppo però ancora noi la maggior parte dell'attenzione in termini di repressione la dedichiamo alla cannabis. Legalizzare e regolamentare i mercati consente di conoscere le sostanze. Se io vado a comprare la cannabis in un negozio, potrò comprare quella medium, quella forte, quella light e sapere esattamente cosa c'è. Se io vado per strada trovo uno che mi vende la droga sintetica e me la propone lui, e me la propone come una cosa migliore, più forte, ovviamente lui ci guadagna di più, e quindi regolamentare serve anche a questo, serve per la salute dei cittadini. Vedremo come va a finire. Intanto Riccardo, grazie. Che si facevano i nonni, si fumavano il canapone? Questo devo chiederlo a mia mamma. Dice, ma nonno, si fumava il canapone? Non lo so, magari Riccardo, magari mi dice delle cose. Nonno, si fumava il canapone. Ringraziamo Riccardo Maggi. Canapone. Dai, smetti. C'era una corda a casa mia, te la sei voluto fumare. Bella quella corda, me la passi. Così, così, vabbè, dai, andiamo al traffico, va. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, non so se hai visto che il bar Jimmy ha messo fuori un bel cartellone con scritto "mi dissocio da quello che dice Manera". Buongiorno Milan, oggi dedicherei il premio Giachetti al ripristino dei vitalizi. Avete la faccia come il culo. Vabbè, l'ha chiamato l'ascoltatore, lui lo mette... Carmelo, a questo punto l'ha chiamato l'ascoltatore, facciamo... Avete la faccia come il culo. In versione originale, i vitalizi, ma io ve l'avevo detto, c'era l'epoca in cui il Movimento 5 Stelle festeggiava davanti al Parlamento, possiamo anche sentire l'audio quando si sono presentati, momento storico, urrà, contro i vitalizi, ippip, urrà! Urrà! Dai Manera, anche tu! Non contro i vitalizi! Io credo urrà! Che con questo sapeva che i ricorsi vitalizi per sempre. Pensi che sarebbe bello invece adesso? Io vorrei. Ecco, ne è partito un altro, è partito, è tutto il premio Giachetti che si rincorre. Sarebbe bello che invece adesso i parlamentari che si sono visti ristorati nei vitalizi, sì? Ecco, andassero loro dessero a festeggiare, a dire urrà, urrà, urrà, sai che bello, è meraviglioso. Urrà, per la legalità costituzionale, urrà, urrà, per la Costituzione, urrà, per i diritti acquisiti. Avete la faccia come il culo. Ma dai, ma chi di noi... Da. Non avrebbe lottato per avere di nuovo i vitalizi se ci si fosse trovati nella loro condizione adesso. Chiediamolo al grande grande Mauro Corona. Mauro, buongiorno, grazie di essere buongiorno. Qui. Buongiorno, siete simpatici, vi seguo. Buongiorno, davvero. Per i vitaliziati, cosa dobbiamo fare? Per i vitaliziati, urrà! Oppure per i vitalizi ripristinati, urrà! Mamma mia, ragazzi, è l'Italia. È l'ennesima dimostrazione di una patria e chi la dirige non impegnata a far star bene la povera gente, i operai, i lavoranti, ma impegnata per se stessi. Ed era chiaro che non se li toglievano i vitalizi. Non sarebbe una cosa troppo grande, nobile, precisa, bella, ma come possiamo pretendere che delle persone che hanno solo la cultura del denaro si sottraggano denaro quando lo possono avere? È stata una nostra pia illusione. Sì, ma anche il metodo con cui è stato fatto, cioè se le regole ci sono, piacciono, no? Come ho detto prima, se c'è una Costituzione, loro si sono appellati a dei diritti costituzionali e hanno vinto, ecco. Ma era ovvio che sarebbe andata così. Ma certo, io non ho nessun recrimine da fare. La Costituzione glielo permette, ma è mai possibile che la Costituzione non debba essere anche aggiustata a favore di una società migliore o no? Perché diceva Henri David Thoreau 180 anni fa, ha scritto un librino di disobbedienza civile, nel quale dice: se è una legge imbecille bisogna opporsi. Sì, sicuramente. Lei avrà visto, scusi Mila, avrà visto che tutto l'impegno dell'Italia, alla fine, dopo i morti, dopo tutto, l'incubo di noi cos'era? Le partite di calcio. L'Italia è una nazione intelligente, di conseguenza pigra, diceva Oscar Wilde. Quindi gli diamo di nuovo le partite di calcio e poi che si tengano i vitalizi contro tutto. Siamo così, non abbiamo capacità di ribellione seria e dire basta. Un po' di panem e circenses. Fino a poco fa, giustamente, Manera citava Pannella, la disobbedienza civile, lei citava Thoreau, grande Thoreau, e poco fa avevamo Riccardo Maggi, uno dei parlamentari dell'iniziativa Io Coltivo, a dire: io mi coltivo la cannabis come esperienza di disobbedienza civile. Sì, effettivamente sono poche sacche di persone che si... Ma se non avessero la testa ottusa a destra o sì, la cannabis è un medicinale, se trattato bene può aiutare le persone a guarire, a far stare meglio. Non si può cavalcare uno che propone la cura con la medicina cannabis e dire: ah, vogliono drogarci i nostri bambini. Cioè, queste cavalcare le situazioni scioccamente, anche opportunisticamente, vigliacamente, non vanno bene. Noi non miglioreremo mai. Per esempio, una domanda che non c'entra niente, perché noi l'avevamo chiamata sull'orso, ma oggi leggevo un'intervista sul Fatto Quotidiano a Gianarturo Ferrari, uno dei finalisti, adesso dello Strega, uno dei grandi dell'editoria per anni, ecco, che certifica in un'intervista al Fatto Quotidiano come il premio Strega sia di fatto, cioè, in mano a logiche diverse dallo stretto merito letterario. È in mano alle case editrici. Esatto. Punto. Ecco, lei che è uno scrittore, Mauro Corona, il premio Strega, cioè, non dovrebbe fare una forma di ribellione a dire: ma basta. Ma no, perché ci tengono a essere lì, se la giocano tra di loro. Guardate la Sestina, sono quelli, e tra l'altro hanno una seriosità. No, Veronesi mi piace tanto, l'ho letto anche il Colibrì, ma un caro figlio, che tra l'altro è una bravissima persona, eccellente scrittore, ma non ride mai, fanno le interviste sempre serioso, sempre ingrugnito, ma io non vincerò mai. Mi è andata bene che ho vinto il Bancarella, perché è una roba seria. Ho vinto il Bancarella sulle vendite, il premio Rigoniste, ma quelle lobby lì eppure ci sono dentro, se la giocano tra di loro. Ci vorrebbe Corona, Villa Giulia. Corona va a Villa Giulia, scombussola tutto. Ma dovessi scrivere la Divina Commedia, no. Ma mi vedreste lì da quelli zelanti parrucconi a Villa Giulia, Corona e Scarponi mezzo ubriaco, ma non ci sarà mai. No, effettivamente non me lo vedo tantissimo. Ma se li tengano, io ho i miei lettori e li ringrazio calorosamente, che mi danno da vivere, ho fatto studiare 4 figli, ho sistemato una baita per loro. Ecco, io ringrazio i miei lettori, ma in quel panorama lì, se non sei simpatico a loro, non entri, ti fanno a fede. Non entri. Vabbè, io invece posso fare i complimenti sì. a Mauro Corona, perché ho visto su Facebook un video dove con una motosega faceva sì. una scultura, ed è sì. bello da vedere, complimenti. È bello perché tra l'altro sono i legni di scarto, era, la mia intenzione era quella, i boscaioli, questi non valgono, cioè la pianta, la base, e invece valgono. E si può fare una cosa, ha fatto una trentina di sculture, il camminatore che va in Valzemola se le vede, se le guarda con la motosega. E quando mio figlio l'ha postato, ha preso più di 3 milioni di visualizzazioni, no? Io mi dico, ma ragazzi, invece che visualizzarmi l'1%, comprate un libro, che poi non ho più bisogno dello strega. giusto, che il click è gratis, e porca miseria, ma compratelo un libro di Mauro Corona, che lì c'è i diritti d'autore, se 3 milioni di visualizzatori comprassero anche solo un terzo, un milione, no, i libri di Mauro Corona... La caratteristica di quel video? Quel video non è brevissimo, dura alcuni minuti, no? Non è proprio breve, eppure lo si sta a vedere volentieri fino alla fine. Perché è affascinante vedere come con una motosega si arriva a fare. No, ma volevo anche dire due parole con l'orso, che vogliono castrare l'orso. Esatto, castrarlo, abbattono il castratore. Quello che vuol che così capisce cosa significa non poter più fare l'amore. Cioè, lei castrerebbe Fugatti, il presidente della provincia, perché lui è la Trordia. Si castra da solo con quelle idee lì, però non è detto che non venga rieletto. Cioè, la gente vive sulle paure. Siccome vuol dominare il mondo, la selva, il bosco, le pianure, i pascoli, l'uomo invece è anche degli animali, lo spazio, è il terreno. Non si può abbatterlo. Hanno speso milioni di euro per introdurre l'orso in Trentino, hanno speso milioni e adesso li vogliono abbattere. Sì, è vero, questa è una contraddizione. Bisogna invece, come ho sempre detto, mandare nelle scuole e anche vicino agli adulti i forestali, le guide alpine, e che insegnino che in certi periodi dell'anno non si va dove l'orsa ha i piccoli, perché ti aggredisce la chioccia nel cortile quando hai i pulcini. Cioè, vuole insegnamento, educazione di comportamenti. Non castrare l'orso, ma c'è la mania di castrare. Mamma sì, mia. L'altra volta avevamo parlato dell'aquila, questa uccisione terribile sì. dell'aquila reale, adesso è l'orso. Ogni estate c'ha il suo orso da battere. Devo dire che è un tormento, un feuilleton estivo, arriva sempre con l'orso. Guardate da battere. Che se si va con un po' di sapienza, di sapere il movimento nei boschi, non succede nulla, l'orso non attacca. Se non hai piccoli, attraversi, dove poi dovevano vedere se maschio o femmina, cioè, e poi mandano che cosa? Le commissioni, le perizie, le consulenze, a sfondi milioni, ma è uno spazio. Dai, gestare l'orso, castrati tu. Anzi, si castra da soli, perché mio padre, quando capì che cominciavo a bere e fumare, giovanissimo ragazzino, mi disse... Dall'alto della sua ferocia, mio padre, ho saputo che fumi e beh, tu, gli ho detto, io sono vecchio, ma ti consiglio di imparare il vizio di andare a donne, che dovrai smetterlo anche se non vuoi, perché gli altri non li smetti. Quindi anche il castratore di orsi si castrerà da solo con l'età. Grazie Mauro Corona, grazie davvero. E comprate un libro di Corona invece di... mettete anche like sui video, però se comprate anche un libro di Corona almeno gli date la possibilità di guadagnare un eurino. Grazie Mauro Corona, andiamo a sentire la borsa. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Si potrebbe sintetizzare: più canapone, meno mascherine. Vai Milan. Secondo me invece la cosa migliore sarebbe emanciparsi da tutte queste dipendenze, perché onestamente vivere dipendente da qualcosa è una cosa incredibile. Buongiorno Milan, manca solo un tassello per regolarizzare la cannabis. La cannabis uccide il coronavirus. Ma non si può, non dovete far parlare gli esperti, perché ci dividiamo in tifoserie. Zangrillo ha detto questo e Burioni ha detto quello, e io voglio che ascoltare solo quello che mi dice che posso uscire di casa, l'altro no, e quell'altro no, io voglio ascoltare solo quelli che mi terrorizzano. Il problema è che questi discorsi sono talmente particolari che non devono essere dati in pasto alle capre come noi. Vabbè, ma no, ma noi, io semplicemente prima mi ero un pochino ironicamente posto nei confronti dell'ascoltatore che diceva: ma sentite Zangrillo se avete il coraggio, e lo abbiamo sentito prima di tutti, quasi, si potrebbe dire. Comunque c'è Adriano da Firenze. Adriano, buongiorno. Sarebbe il migliore, scusa, dei mondi possibili, no? Se fosse un mondo senza dipendenze. Purtroppo le dipendenze da una cosa o dall'altra ci sono sempre state nella storia dell'uomo. Quindi non si possono eliminare, esatto. Ci saranno sempre dipendenze, anche pesanti. Non si può. Sarebbe anche oltre. Un bello mondo con la pace mondiale, senza fame. Saremo obbligati mondo. Per sempre ad avere dipendenze, non ne usciremo mai, leggere, pesanti. Basta guerra. Non si può. Adriano da Firenze, dai che siamo sempre di corsa. Buongiorno Adriano, lasciatelo con le sue dipendenze. Prego, prego. Io, a parte che sono un vostro ascoltatore fisso, quando posso, ho telefonato a proposito dei vitalizi, no? Perché si continua a chiamarli diritti acquisiti. Io sono convinto che dobbiamo cambiare il nome, sono furti di Stato legalizzati da una politica ladra. Questa è la vera definizione dei vitalizi, a parte vabbè, il fatto che sì. Questo è un po' populista come posizione. Ma non è populismo, scusi un secondo, io guardi, le faccio un esempio, no? Mia moglie per motivi familiari nel 68, no? Perché purtroppo abbiamo una certa età, ha dovuto smettere di lavorare, ha pagato i contributi per avere la pensione minima a 60, addirittura allora a 60 anni, poi l'hanno portata a 65, va bene tutto, poi viene un governo, scusi, il governo un po' delinquenziale di Amato, e cosa fa? Dice: no, guarda, tu sei su scherzi a parte, non vale più questo discorso, la tua pensione è minima, te la sogni, adesso ti diamo quello per cui mia moglie poteva continuare a lavorare se avesse saputo che era su scherzi a parte, no? Allora, il ragionamento è, guardi, Amato se ne è ben guardato di vedere un po' le sue pensioni, i vitalizi, ha pensato solo a quelle persone che hanno pagato 18 anni per avere diritto anche vabbè, allora Adriano, il tema comunque è che i vitalizi ci sono, peraltro sono stati cambiati, in futuro non saranno più come erano prima, quando bastava mezz'ora in Parlamento, in una legislatura ti beccavi 5 anni di legislatura e vitalizio, adesso non è più così, sono cambiate le regole. Semplicemente io dico: va bene, decurtiamoli, troviamo un modo legale, perché se ci sono le regole questi fanno ricorso e avranno sempre ragione in un tribunale. Può non piacere, lo ripeto, non piace anche a me, ma Avranno ricorso, avranno ragione. Amico sempre, dei poteri se forti, amico dei ma, poteri aspetta, forti. Garogio, che c'è Fabio da Padova. C'è Fabio. Se dobbiamo aspettare i sistemi legali, non andiamo più a casa. Non andiamo più a casa. Sentiamo Fabio, Fabio da Padova. Sì, sì, buongiorno, eccoci. Signor Mila. Buongiorno anche alla caldaia, al frigo del signor Bonetti. E buongiorno a Leonardo Monera. Sì, ascolti, sì. No, volevo solo riguardo il fumo, volevo dire che nel profondo nord una volta c'era la pratica di fumarsi anche il tutolo, quindi se qualcuno vuole cercare uno sballo io non sono favorevole, ma c'è anche quel sistema lì per fumare. E no, volevo dissentire parzialmente per quanto diceva la professoressa Mastrocola, ecco, per quanto riguarda l'educazione civica, io sono favorevolissimo al reinserimento, all'introduzione e educazione civica, esatto, perché lo si vede quotidianamente, lo si riscontra, quindi è importantissimo. Non credo sia tempo rubato, ecco, per carità, poesia, la cultura, insomma, è importantissimo. Sì, sì, lei dice no, non devono essere, come dire, contrapposte, però lei è favorevole. Fabio, perché andiamo di corsa oggi, però ci tenevo dalla parola, dice lei è favorevole assolutamente all'introduzione dell'educazione. Stai mettendo civica. Un'ansia con questo andiamo di corsa dall'inizio, mamma no, mia. Lo so, ma devo perché io ci tenevo basta, soprattutto qui, per te, sì, Leonardo Manera, non tanto per lui, Federico Taddia, che saluto comunque, Federico, non Federico lo faccio Taddia. Per te. No! Lo faccio per dar contro a Manera, Federico. Buongiorno. Allora. Solo e soprattutto per questo, perché i giochi che Federico ci proponeva per i nostri figli durante il lockdown sono diventati un libro. Tiè, Manera, esatto. Faccio così. To. Gesto dell'ombrello, così anche. Me ne dispiaccio. Lo so, tu te ne dispiace. Comunque, prima di parlare del libro, aneddoto veloce è successo ieri pomeriggio. Mi sono fermato da un coccomeraio, il quale mi ha riconosciuto, sì. E mi ha detto, ma lei è Taddia? Ho detto, sì. Ma è quello che è stato maltrattato da Manera durante il lockdown. Mi sono rimasto ma anche malissimo. Fisicamente, perché una volta l'ha incrociato in piazza Udine e gliela date fisicamente Manera. No, Federico è grande, alto, non potrei. È pericoloso ma per Federico. Ma magro. Federico ma magro. Sì, ma è un po' mezzo delinquente anche, gira sempre con delle armi. Vabbè, lui Federico, che oltre a condurre da noi Padre Eterni la domenica alle 11, ha scritto un libro. Come si intitola, sì, questo libro per Mondadori ragazzi? Molto velocemente, sì. L'idea è proprio nata facendo i nostri giochi, quando i ragazzi sono potuti uscire, tornare insieme. Ho detto, ok, come si può giocare in gruppo adesso che sono cambiate un po' le regole? E si chiama Giochi di gruppo anche a un metro di distanza. Abbiamo preso i giochi più famosi e gli sport anche e abbiamo cambiato le regole. Perché dicono i bambini, capito, non possono più giocare, e non è vero, i bambini possono ancora giocare, ma con giochi diversi. E quindi insieme a Marco Cattaneo, che è un giornalista sportivo, e Pier Domenico Baccalario, che è un altro scrittore per ragazzi, abbiamo veramente cambiato tutte le regole dei giochi in modo da renderli praticabili anche con le regole di sicurezza. So. Potremmo dire che il buon Leonardo Manera è un po' il coautore, è l'ispiratore di questo libro. Sei fiero, caro Leonardo? Spero ci sia dedicato a lui questo libro, al signor Bonetti. Al il signor metro Bonetti. Di distanza è per lui. Lui, capito, Leonardo? È uscito ieri l'ebook con giochi, sport, e a settembre in libreria, esatto. Capito? Bene, andrò in libreria, andrò sicuramente in libreria a guardare il a libro di Federico. A, no, a fare le foto col telefonino per lo non comprarlo, dai. Sì, dai, no, ci tenevamo a salutarti e ricordarti questa cosa, ma d'altronde avrai capito oggi, Federico, andiamo di corsa. E quindi ricordate però già l'ebook Giochi di gruppo anche a un metro di distanza, il nostro Federico Taddia. Libro, si può dire, dai, ce la teniamo, nato qui. Non è vero, ce l'aveva già in mente. Però no, nato qui. Grazie. Grande Federico, ciao, ti abbracciamo. Ciao. Andiamo di corsa al traffico, di corsa. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App. Semplice, rapida, conveniente. Da smartphone e tablet. Credit Reform. Primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreforma.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Signori, meno male che è il weekend quasi, e allora noi abbiamo richiamato il mitico Francesco Vagone, perché si torna a viaggiare, si tornano a organizzare i weekend. Caro signor Vagone, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Sono Francesco Vagone della Vagone Tour International. Voglio subito dire a tutti gli ascoltatori che anche se mi chiamo Vagone non organizzo solo viaggi in treno. Questa è una bella battuta per mettere subito di buon umore gli ascoltatori. Allora, oggi sono qui a proporvi una delle mie prestigiose mete ancora non intelaiate dal turismo di massa. Infatti, ad esempio, perché andare in Sardegna? Quando arrivi col taraghetto, col passaggio ponte, col mare forza 7, ti viene una nausea che poi per smaltirla non basta l'intera vacanza. Oppure perché andare, tienimi la base un po' più forte in regia, che dà allegria. Oppure perché andare in California a deprimersi quando sulla spiaggia si vedono i corpi scolpiti degli altri. Oppure ancora perché andare le Seychelles. Ho già le mie due, aggiungo quelle di mia moglie e di mio figlio, ho già le Seychelles. La destinazione ideale è Beronzi Superiore, un grazioso borgo non ancora invasato dal turismo di ammassa. Beronzi Superiore è sconosciuto ai più, ma anche ai meno, insomma non ci è andato ancora in vacanza nessuno. A 3 ore dal mare, 3 ore dalla montagna, 3 ore dalla collina, insomma 3 ore dalla vita. E andare in vacanza a Beronzi, ogni volta che ci vai hai la sensazione di risorgere, un'esperienza mistica che consigliamo anche ai più religiosi. In verità, una volta a Beronzi è venuta in vacanza una comitiva di suore, ma appena hanno visto il paese hanno sostituito il cartello Beronzi con un altro cartello con scritto Purgatorio e sono andate via rapidamente. Quindi è innegabile che Beronzi si ancora iscevra totalmente dal turismo di ammassa. Voglio però ricordare che per tutte le persone che vengono in vacanza a Beronzi c'è una promozione imperdibile. È la promozione Van Gogh Beronzi. Ecco in cosa consiste. Se quando arrivi a Beronzi non sai cosa fare per la disperazione ti tagli un orecchio, avrai un euro di sconto da spendere nella farmacia del paese per acquistare disinfettante per i lobby auricolari. Ricordiamo inoltre che la farmacia si trova dentro al mini market del paese, dove puoi trovare anche Grissini e alcuni quotidiani del periodo. Ma ora è venuto l'imperdibile momento di conoscere le attrazioni di Beronzi. La prima è proprio Aurelio, il farmacista. Aurelio, il farmacista, è noto per l'abuso di stupefacenti e quindi è disponibile a dare qualsiasi farmaco anche senza ricetta, pur di procurarsi denaro per i suoi stravizi. Aurelio, il farmacista, propone sempre rimedi pesanti, anche per un semplice mal di testa vuole dare la morfina, ovviamente senza ricetto, e accetta volentieri denaro sottobanco. Aurelio, il farmacista, ride spesso senza motivo e quando non sa cosa fare si infila le palline dei medicinali omeopatici nel naso. Accorrete a Beronzi per vedere e conoscere Aurelio, il farmacista. Ma poi potrete gustare anche le altre attrazioni, per esempio Franca, la donna anziana che a forza di mettere lacca sui capelli li ha trasformati in una scultura di arte contemporanea impossibile da scalfire anche con uno scalpello. Puoi provare anche tu con uno scalpello come al Luna Parco, basta 1 euro, ma i suoi capelli resteranno lì fermi, immobili come il paride di Donatello. Oppure Giovannino, il medico condotto del paese che minimizza sempre. Se un suo paziente sta per morire, lui minimizza dicendo niente di grave, capita a tutti. E poi ancora Augusto, il barista di cattivo gusto, che quando come il padre di Donatello, ragazzi. Augusto, il barista di cattivo gusto, che quando prepara il cappuccino, invece di fare il cuoricino con la schiuma, crea immagini di organi maschili per creare sorta. Si fermi qui. Sollazzo. Quindi, please, c'ha pure le rime baciate. Sì, Boris. Quindi, please, visit Beronzi, vi assediamo. Sì. Per una vacanza che o non dimenticherete mai o dimenticherete subito. Così, cos'era del Donatello? Vagone. Del il paride di Donatello, la famosa scultura, il paride di Donatello. Davide. Vabbè. Ma questo dai, lo dice lei. Vabbè, le Seychelles. Dai, ok. Grazie signor Vagone, tutti a Beronzi superiore e intanto, come dire, per il momento andiamo a berci un caffè, va che è meglio. Ci troviamo, oggi siamo un po' di corsa, ma andiamo di corsa anche a bere un caffè. Ci troviamo lunedì.